as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo sempre qui al Pane delle Rose, Radio Città Fucico 103.1, trasmissione dei lavoratori metalmeccanici e non solo. Oggi abbiamo l'intervista a Landini, ero insieme agli altri giornalisti, ci ha concesso una serie di domande, ho registrato tutto, e anche perché sono state dette delle cose interessanti, alcuni giornalisti di varie televisioni, in vari giornali hanno incalzato Landini, eravamo al congresso della CGIL di Bologna, durante il congresso sentirete anche le voci di chi stava intervenendo in quel momento, tantissime cose Landini ha dichiarato, lo sentirete, affronterà vari argomenti, soprattutto sul governo, ma non solo, si parlerà anche di alternanza scuola-lavoro, di sicurezza, insomma anche dell'opposizione a questo governo, chi la fa e chi non la fa. Ora, prima dell'intervista a Landini, vorrei dedicarvi una canzone. La dedico a tutti quelli che credono ancora nella rivoluzione. Non lo sai, stanno parlando di rivoluzione, sembra un sussurro. Non lo sai, stanno parlando di una rivoluzione, sembra un sussurro. Mentre fanno la coda per il sussidio, piangendo la porta degli eserciti della salvezza, sprecando tempo agli uffici di collocamento, aspettando una promozione, la povera gente si ribellerà e si prenderà la sua parte. La povera gente si ribellerà, si prenderà ciò che le appartiene. Non lo sai. Faresti meglio a correre, correre, correre. Ho detto che dovresti correre, correre e correre. Finalmente la situazione si capovolgerà. Parlando di rivoluzione. Tessie Chapman. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. But a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Ma in che direzione sta andando il governo? Beh, erano emergenti i limiti della manovra. Si sono fatte delle marchette elettorali, penso ai condoni fiscali, alle sanzioni, a questa idea folle della flat tax. È quello che sta venendo fuori, che i prezzi aumentano, l'inflazione aumenta, la gente non arriva alla fine del mese. E credo che ci sia bisogno di cambiare proprio politica, come noi avevamo chiesto, che era la base anche delle nostre manifestazioni, dei nostri scioperi. Oggi è il momento di ridurre il carico fiscale sul lavoro dipendente, sui pensionati. Oggi c'è bisogno di un contributo straordinario di solidarietà da chiedere a tutte le imprese che hanno fatto extra profitti e profitti in questo periodo. Ed è il momento di cancellare la precarietà e di creare lavoro e di investire in modo serio sulla sanità. Ieri è arrivato un segnale dalla Meloni, ha detto non riduciamo le accise sulla benzina perché altrimenti favoriremo le persone che hanno più soldi. Questi soldi li reinvestiremo se ci saranno più entrate con l'IVA. No, le entrate con l'IVA ci sono già state in più, perché se uno va a vedere quello che è successo nel 2022, nel nostro paese ci sono stati più di 44 miliardi di entrate in più, quindi non è che mancano le risorse, sono state fatte delle scelte, insisto. Se tu i soldi che hai in più li metti per sostenere i condoni, se tu i soldi che hai in più li metti per fare la flat tax a chi già prende 80 mila euro, è chiaro che quelli che non arrivano alla fine del mese. Vorrei ricordare a tutti che nel nostro paese l'87% non arriva a 35 mila euro lordi e hai quasi 10 milioni di persone che pur lavorando sono povere perché non arrivano a 15-20 mila euro all'anno, di questo stiamo parlando. Quindi lì c'è da fare degli interventi subito, c'è da cambiare la situazione e quindi bisogna cambiare politiche economiche e sociali sbagliate che dentro la legge di bilancio sono state fatte. Per me un'ultima domanda, avevate già avuto un incontro con il governo, non era ancora chiara per la linea, chiederete un nuovo incontro ora che è chiara in che direzione si sta andando? Noi abbiamo chiesto in modo molto esplicito al governo di cambiare, non ci ha ascoltato, non ha voluto discutere con noi e oggi si stanno vedendo i risultati. È chiaro che per quello che ci riguarda oggi bisogna fare una vera riforma fiscale, subito, c'è bisogno, insisto, di un contributo di solidarietà, è uno scandalo che nel nostro paese da un lato la rendita finanziaria è tassata meno del lavoro dipendente e dall'altra che ci sono miliardi di extra profitti che vengono lasciati semplicemente in mano alle imprese. Quindi oggi bisogna andare a prendere i soldi dove sono e c'è bisogno di fare una riforma fiscale che combatta l'evasione fiscale, abbiamo più di 100 miliardi di evasione fiscale, e che aumenti il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. E dall'altra parte, perché l'altro grande nostro problema è la precarietà che oggi c'è nel lavoro. Noi siamo il paese che ha i livelli di precarietà più alti e i giovani non hanno un futuro ed è un paese in cui si continua a morire ogni giorno sul lavoro. Quindi oggi combattere la precarietà e aumentare i salari vuol dire rimettere al centro il lavoro ma anche la giustizia sociale. Il sciopero dei benzinai è un segnale, giusto? Sì, ma prima dello sciopero dei benzinai naturalmente c'è stato lo sciopero che abbiamo fatto noi alla UIL a dicembre e penso che certo che è un segnale di malessere sociale evidente. In questo caso sono anche evidenti i limiti e gli errori che lo stesso governo ha fatto, io insisto, vorrei che fosse chiaro questo passaggio, nessuno mette in discussione che chi è il governo ha vinto le elezioni e ha il diritto di governare, ma se andiamo a vedere i numeri uno dovrebbe avere anche questa percezione, chi ha votato il governo sono 12 milioni e mezzo di italiani, chi ha votato i partiti che non sono al governo sono 15 milioni e ci sono 18 milioni di persone che a votare non ci sono andate. Quindi in questo momento non c'è nessuno che da solo può dire di rappresentare tutto il paese e pensare di poter utilizzare quel voto che hai avuto quando metà dei cittadini italiani quasi a votare non c'è andato vuol dire che non ti stai assumendo la responsabilità di governare tenendo conto degli interessi di tutti. E quindi noi stiamo dicendo che c'è bisogno di coinvolgere il sindacato, non perché siamo belli o simpatici, ma perché rappresentiamo milioni di persone e perché chi tiene in piedi questo paese, che tutti i giorni lavora e che paga le tasse fino alla fine, anche per quelli che le vadano. Questo è il tema di cambiamento e quindi noi diciamo al governo che la riforma delle pensioni, la riforma del fisco, il superamento della precarietà, l'aumento dei salari, nuove politiche industriali, l'investimento sulla sanità pubblica e sulla scuola, sono le scelte che devono essere fatte. E se il governo le vuol fare con noi, non siamo pronti a trattare. Se il governo pensa di andare avanti per conto suo, noi faremo tutto quello che è necessario fare, anche risendendo in piazza. Segretario, chi la sta facendo l'opposizione? I sindacati, perché il PD è molto impegnato nel congresso in questo momento e sembra un po' impegnato in altre discussioni interne più che nel contrastare l'azione del governo. Banalmente non è mica compito del sindacato fare l'opposizione al governo, noi facciamo il nostro mestiere. E noi nel fare il nostro mestiere ci misuriamo con i governi che ci sono, l'abbiamo sempre fatto. Quando è stato ora abbiamo fatto sciopero anche contro il governo Draghi proprio sul fisco, avevamo ragione a farlo perché non è cambiato nulla. E noi stiamo chiedendo al governo che ci convochi per fare le riforme e per cambiare. Il nostro mestiere, io sul PD non ho nulla da dire, rispetto alla discussione che stanno facendo come tutti i partiti, anzi se posso dire dico una cosa a tutta la politica. Insisto, quando metà del paese a votare non ci va, significa che in questi anni si è determinata una rottura tra la politica e la rappresentanza sociale, ed in particolare con la rappresentanza del mondo del lavoro. Quindi penso che sarebbe utile non solo il PD, ma che tutte le forze politiche d'opposizione e di governo ripartissero dal problema che riguarda la vita delle persone, quindi che il lavoro e la condizione di lavoro tornasse al centro della politica. Questa è la richiesta che facciamo. Secondo voi la manovra sulle accise avrebbe dovuto essere confermata? Sì, mi sembra sotto gli occhi di tutti, sì. Invece di confermare quella cosa lì hanno fatto i condoni, hanno fatto le sanzioni, si sono inventate la flat tax, hanno fatto delle marchette elettorali, non so se è chiaro come concetto. E noi le marchette elettorali del governo le stiamo pagando noi, che adesso ci tocca pagare di più la benzina o il gas o il gasolio. Dopodiché c'è un problema di fondo che riguarda più in generale, se la ragioniamo, che tipo di politiche economiche, sociali e fiscali sostanzialmente si fanno. E poi ce la guardiamo sul versante più generale, è chiaro che c'è anche una battaglia europea da fare, perché c'è la necessità anche di cambiare delle politiche europee per poter avviare anche politiche diverse. E sull'energia sicuramente siamo di fronte alla necessità di avere una politica energetica del nostro paese. La dico secca, noi abbiamo bisogno della sovranità energetica. E per avere la sovranità energetica abbiamo bisogno di fare investimenti sulle energie rinnovabili per essere un paese che non deve più dipendere né dal gas né da altre cose. E di questo non si sta discutendo. Questo è uno dei temi centrali, secondo noi, che deve essere affrontato in termini di investimenti, di creazione di lavoro e anche di ruolo del nostro paese in Italia e in Europa. E in questo sarebbe anche necessario che si decidesse di spendere meno soldi sulle armi. Questo vale per l'Italia ma vale in senso generale, perché quello che sta avvenendo con la guerra che è scoppiata in Ucraina è che in tutto il mondo si stanno aumentando le spese militari a dismisura per armarsi addirittura con armi nucleari. Questa è un'altra follia che secondo noi va fermata, perché mai come adesso c'è bisogno di investire sulla salute, sulla sicurezza, sulla tutela ambientale per far vivere le persone e non per farle morire. Ma infatti il tema della sicurezza sul lavoro è un'emergenza del momento. Come cambiare un po' il trend del momento anche in chiave di alternanza scuola-lavoro? Insomma, è un problema che sta attanagliando anche noi. L'abbiamo detto in modo molto chiaro ieri, c'era un incontro. Morire sul lavoro non è un'emergenza dell'oggi. Se guardiamo negli ultimi 10-15 anni stiamo parlando di quasi 20.000 persone che sono morte sul lavoro, quindi stiamo parlando di una strage che continua da tempo. E da questo punto di vista noi proprio ieri abbiamo detto al governo che non c'è più tempo, proprio ieri è morta un'altra persona e ci sono stati altri due infortuni gravi con persone che sono ancora in ospedale e non si sa in quale condizione. Quindi c'è bisogno di cambiare radicalmente, anche qui c'è da fare degli investimenti, bisogna investire negli ispettorati, bisogna investire nei servizi di medicina preventiva del lavoro, bisogna fare prevenzione, la prevenzione è fare formazione sia agli imprenditori che ai lavoratori prima che vadano a lavorare. Questo è il tema di fondo. Dentro questo, rispetto all'alternanza scuola-lavoro, avremo un incontro, visto che il governo ha accettato di discutere di questo tema il 26 di gennaio, e noi stiamo dicendo che bisogna superare l'obbligatorietà, non può più essere obbligatorio, e bisogna aprire una discussione seria che riguarda come si fa, quando la si fa l'alternanza scuola-lavoro, perché non deve essere né lavoro sfruttato né altre attività di lavoro. Questo vuol dire coinvolgere anche gli studenti e anche le organizzazioni sindacali nel definirlo, vuol dire fare una formazione vera ai tutor in modo che ci sia una qualità di formazione, vuol dire ripensare e migliorare sicuramente quello strumento a diversità di quello che è stato fatto fino ad oggi. Oggi la Fillea ha parlato di un reato di omicidio sul lavoro qui al congresso di Bologna. È una proposta che la Fillea sta portando avanti, è un tema che ieri abbiamo posto insieme anche alla UIL al tavolo con il governo. Che grazie. Grazie. Mother, I tried to do right by you, to do what you asked me to. I did wrong and I knew. Mother, I try to behave for you. Now I'm a digging a grave for you. It was all I could do. Find a way back home, make everything new. Well, I wish it was true. Father, well, I gave my soul to you. I came in blindfolded for you. It was all that I knew. You open your arms and I'll fly out of hell up to you. I wish it was true. Come on out from the cold. You're lost outside there, don't you know? It's not what you say, it's what you do. Just keep wishing your wishes are true. Will your dreams a reality? Yeah. There's no pain, there's no misery. Just polish the blood and the bruise. There's just no way you can lose. Well, I wish it was true. Country, I was a soldier for you. I did what you asked me to. It was wrong and you knew. Country, now I'm just a stranger to you. A number, a name, it's true. Throw me away when you're through. The home of the brave and the free, the red, white, and blue. Well, I wish it was true. Mamma, provo a fare del bene per te. Per fare ciò che mi ha chiesto, ho sbagliato e lo sapevo. Mamma, cercavo di comportarmi bene per te, ora sto scavando una tomba per te. Era tutto ciò che potessi fare. Trovo un modo per tornare a casa, fare tutto nuovamente, ma spero che sia vero. Padre, ho dato l'anima per te, sono venuto e bendato per te, era tutto quello che sapevo. Apri le tue braccia ed io volerò fuori dall'inferno da te. Spero che sia vero. Ragazzo, vieni fuori dal freddo, ti sei perso e non lo sai. Non è ciò che dici e ciò che fai. Desidera che i tuoi desideri diventino realtà. Bei sogni sono la realtà. Non c'è dolore né vergogna. Basta lucidare sangue e lividi. Non c'è maniera in cui puoi perdere, ma spero che sia vero. Nazione, ero un soldato per te, ho fatto ciò che mi hai chiesto, era sbagliato e lo sapevo. Nazione, ora sono uno straniero per te, un numero, un nome, è vero, buttami via quando hai finito. La casa del coraggioso e del libero, il rosso, il bianco e il blu, ma spero che sia vero. Questo è Wish It Was True di White Buffalo, una canzone bellissima che io voglio dedicare a tutti quei lavoratori, ucraini soprattutto, che in questo momento stanno morendo nelle trincee, nel Donbass, massacrati, che spesso vengono arruolati con forza, non vogliono andare a combattere, sono spesso per la pace, non vogliono massacrare i loro fratelli russi, ucraini, non vogliono combattere, ma sono costretti a farlo. Oppure a quelli che credevano in un ideale e oggi sono massacrati, sono abbandonati nel fronte. Questo vale per loro, ma vale anche per i russi, per i lavoratori russi che in questo momento stanno combattendo. Sono stati chiamati alle armi, tutti e due, per l'imperialismo. Noi come delegati sindacali, come sindacalisti, militanti politici, soprattutto che abbiamo a cuore i lavoratori in tutto il mondo e siamo degli internazionalisti, non possiamo tollerare quello che sta accadendo oggi non solo in Donbass ma anche in altre parti del mondo in cui i lavoratori sono mandati al massacro per interessi imperialistici. Non siamo semplici pacifisti. Ecco, volevo dedicare questa canzone a tutti quei lavoratori che in questo momento stanno morendo e quelli che moriranno nei prossimi mesi. Avete ascoltato Landini? Cosa dire? Io la faccio molto breve, ha detto tantissime cose interessanti. Vorrei prendere spunto da alcune questioni. Che questo governo stia facendo delle marchette elettorali è palese. Che questo governo non sia a favore dei lavoratori dipendenti, ma abbia preso le parti di una parte del paese, stiamo parlando delle partite IVA, quelle che guadagnano fino a 88.000 euro, a cui ha abbassato le tasse, è un dato vero. Ma l'87% del paese, questo governo non guarda. Secondo questo governo l'ossatura di questo paese sono le partite IVA, e non siamo noi lavoratori dipendenti. In realtà noi siamo dei semplici servi, degli schiavi per loro. L'opposizione, forse Landini dice che non è compito del sindacato farlo, ma quando un governo non fa gli interessi dei lavoratori, questo vale per i padroni, vale per i governi, bisogna fargli non solo l'opposizione ma la lotta, bisogna fargli la guerra. E su questo non sono d'accordo con Landini. Sulla sicurezza ha detto cose interessanti. Io ho fatto una domanda in cui ho chiesto sulla proposta della Fillea. Speriamo di fare una puntata speciale in cui parlare di questa questione, della questione dell'omicidio sul lavoro. Ecco, io vi lascio alla prossima puntata. A presto. Orgoglioso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor. Somos la revolución.